140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e là dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Col singolo Take Your Time ha scalato le classifiche. Adesso arriva l'album Montevallo. Dalla musica country alle hit mondiali, Sam Hunt. Well, this is the name of a town just south of the town where I went to college. È il nome di una città vicino a quella in cui qualche anno fa ho frequentato il college, un po' più a sud. Frequentavo una ragazza lì a Montevallo. E nei primi anni in cui vivevo a Nashville per fare musica, appena potevo mi mettevo in viaggio per Montevallo. She had a lot to do with the inspiration behind a lot of the songs on the album. Quella ragazza è stata l'ispirazione per tante delle canzoni incluse nell'album. Mi sembrava che Montevallo avesse un rapporto profondo con il disco. C'è un rapporto molto forte e intimo con quel luogo. Il nome mi sembrava perfetto per il titolo. The title. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No girl, I'm not wasted, you don't know me. La prima canzone è Take Your Time, quella che ti ha fatto conoscere in Italia e in tutto il mondo. C'è qualcosa di magico, di speciale in quella canzone? Può una canzone cambiare la vita e la carriera di una persona? Yeah, absolutely. I wasn't aware of the magic or the it factor, whatever the song has. Sì, assolutamente. Non mi ero reso conto della magia che poteva avere quella canzone. L'ho capito quando è uscito il disco dalle reazioni delle persone. Per fortuna molta gente ha sentito un legame profondo con quel brano, persone talmente diverse tra loro, di età diverse. That's been the song from the beginning that was my... Dal primo momento, però, ho capito che era la canzone che mi rappresentava meglio come artista e che sarebbe stata la base su cui costruire l'album. Sono orgoglioso che il pezzo sia andato così bene e che sia piaciuto alla gente. I'm just proud that the song has done so well and that people have enjoyed it. Adesso però voglio sapere perché quella che ti rappresenta meglio. I think it captures all of my influences, musical influences in one song. Penso che catturi tutte le mie influenze musicali. È una canzone con una storia che è tipico della musica country. Ha una cadenza forse più tipica dell'R&B e dell'hip hop. Mescola questi mondi e li esplora nel corso del brano. So it sort of blends those worlds and goes in and out of those worlds throughout the song. That's what I love. È quello che amo di più, lo storytelling della canzone country e gli elementi musicali dell'R&B e dell'hip hop. Those two styles most authentically. Sei riuscito a portare anche un po' di musica country che noi non conosciamo e pensiamo che sia un mondo a parte. That country music is its own culture. Yeah. I think traditionally it has been. When you mention names like John Denver or Johnny Cash or George Jones, Waylon Jennings. Credo che la musica country abbia avuto tradizionalmente una sua cultura a parte. Se pensi ai tempi di John Denver, Johnny Cash, George Jones, Waylon Jennings. Credo che quell'era della musica country rappresentasse una cultura di nicchia unica degli Stati Uniti, anzi di una parte degli Stati Uniti. Now that the genre has broadened and there are more styles within the genre, I think ora il genere si è allargato, ci sono più stili diversi all'interno dello stesso genere, che è riuscito a conservare il suo cuore e la sua anima, ma allo stesso tempo crescendo e progredendo verso un sound che ha catturato anche persone che non venivano da quella cultura di nicchia. Adesso piace anche a persone che non sono nate e cresciute nella cultura country. So I think now it you know it's able to appeal to people Even if you don't grow up in the country or you don't come from that culture. Ho guardato moltissime tue interviste su YouTube. Non so perché tutti i giornalisti, soprattutto i giornalisti, perché tutti ti chiedono delle donne. Gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo vedono, quindi glielo chiediamo. Perché? Why? Why do they ask me about women? I don't know. I like to think that it's because... Non lo so. Mi piace pensare che sia perché molte mie canzoni sono ispirate alle mie relazioni sentimentali. E le donne sono più sensibili a questi temi. L'amore, i rapporti, il romanticismo. Credo che sia questo il legame. And my songs, you know, they're inspired by those experiences, my experiences with women. I think that's where the connection lies. Diplomatico, però è arrossito. You blushed a little. Yeah, a little bit. Sei ovviamente ancora giovanissimo, però il successo mondiale è arrivato adesso che di anni ne hai poco più di 30. È più bello raggiungere il successo a 30 anni che da ragazzino? Oh yeah, I think so, because I think I was able to live... Credo di sì. Sono riuscito a vivere una normale vita da adulto prima di entrare in questo mondo. Sono stato lontano da tentazioni e distrazioni che avrei avuto magari a 18, 19, 20 anni. So hopefully I have grown a little bit more wise with age and... Spero di essere diventato più saggio con l'età e che questo mi possa aiutare ad affrontare questo stile di vita con più grazia. Helps me handle this new lifestyle with a little more grace. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Sam Hunt. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.